Siamo con Andrea Chimento, direttore della seconda edizione del Long Take Interactive Film Festival al Cinema Spazio Oberdan di Milano dal 20 al 24 giugno. Andrea, ben trovato. Ciao, ciao Federico, grazie. Tutto bene? Tutto benissimo, siamo quasi pronti, dai. Ci racconti? Sì, volentierissimo. Dunque, il festival si svolge appunto su 5 giorni, dal 20 al 24 giugno, ed è un festival a cui noi puntiamo moltissimo per l'interattività appunto con il pubblico. Tant'è che quasi la metà dei film in programma è il pubblico che li ha scelti votando tramite sondaggi che toccavano un po' tutta la storia del cinema. Ci saranno omaggi a Ingmar Bergman, Milos Forman, Isaac Hatta, alcuni registi appunto anche scomparsi da poco, e a cui si aggiungono anche invece alcuni film in concorso nuovi, dei film inediti nelle sale, tra cui segnalo in particolare American Honey di Andrea Arnold, che aveva vinto il premio al Festival di Cannes nel 2016, il premio della giuria, e Ghost Story, storia di un fantasma, con Casey Affleck e Rooney Mara, che proietteremo sabato 23 giugno alle 21:15. E poi ti segnalo anche la chiusura del festival, che sarà con una copia in pellicola della Donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, che celebrava un po' nei 60 anni dalla sua uscita nelle sale. Benissimo. Allora, è la seconda edizione. Ci racconti un po' com'è nata e quali sono le sue caratteristiche? Sì, assolutamente. Dunque, nasce tutto un po' dal portale di Long Take, che è un sito di recensioni, un social network in cui gli utenti possono seguire amici, farsi seguire, condividere i propri pensieri sul cinema, i propri giudizi, votare i film presenti appunto su questo dizionario online. E da questa base appunto di internet, diciamo così, c'è stato poi il desiderio di spostarsi a fare degli eventi concreti sul territorio milanese. Prima alcuni workshop, seminari su registi, corsi di critica cinematografica, e poi appunto questo approdo invece al festival dallo scorso anno insieme alla Fondazione Cineteca Italiana, sempre un po' col desiderio, come ti anticipavo, di coinvolgere molto il pubblico. E ci saranno anche alcuni workshop e incontri durante il festival. Infatti avremo Luca Bigazzi, il direttore della fotografia del Divo della Grande Bellezza, che farà un incontro con il pubblico domenica pomeriggio del film Il Divo di Sorrentino. Benissimo. Senti, tutti i riferimenti web? Web li trovate su longtake.it/festival per conoscere la programmazione o abbonamenti anche. Senti, come saranno organizzate queste giornate dal 20 al 24? Guarda, le proiezioni partono dal primo pomeriggio. Il primo giorno partiamo alle 15:30 con Persona di Bergman e arriviamo fino alla sera, e ci sarà anche una serata con un double bill, diciamo, di film un po' estremi, il giovedì sera, con Cell Block 99 alle 19 e Raw, un film horror francese molto, molto intenso, alle 22:15, quindi chiuderemo proprio in nottata, diciamo così, le nostre serate del Long Take Interactive Film Festival. Per un totale di quanti lavori presentati? Allora, presentiamo in tutto 16 film, 16 divisi tra 8 film in concorso e 8 film, diciamo, di retrospettive, film di omaggi scelti appunto dal pubblico, e due workshop, tra cui quello di Luca Bigazzi, e invece un workshop di due registi italiani, Samuele Sestieri e Olmo Amato, direttori del film I racconti dell'orso, che presenteremo appunto durante il festival, e terranno un seminario su come realizzare un film a basso budget venerdì 22 giugno. Anche questo è un appuntamento a cui teniamo davvero tanto. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la seconda edizione del Long Take Interactive Film Festival allo Spazio Oberdan di Milano dal 20 al 24 giugno. Un saluto e un ringraziamento al direttore Andrea Chimento. Andrea, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi.